2024 2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata di 2024 alle 15:34 minuti. Bentornati o benvenuti. 2024 è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci è 2024@radio24.it. Oppure se volete telefonarci, cosa che preferisco come sapete, per sentire la vostra voce, per interagire nella seconda parte, quando parleremo di Surface, del nuovo tablet di Microsoft, così come è stato presentato da Steve Ballmer. This is the new Microsoft Surface. Numero verde, dicevo, 800240024, potete già prenotare una vostra telefonata per domandarci qualche cosa su Surface, anche se alcune particolarità non le sappiamo, forse non le sa nemmeno la Microsoft, perché da qui a settembre, ottobre o forse anche un po' più in là qualche cosa cambierà. Luca Figini, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico. Ho detto bene, eh? Settembre, ottobre, novembre, quando uscirà questo Surface? Dovrebbe uscire più o meno con Windows 8, quindi autunno, back to school come viene detto, ritorno a scuola dopo l'estate. Autunno che inizia il 21 settembre, più o meno, insomma ottobre, diciamo così. Allora, Steve Ballmer ha presentato Surface nella notte di martedì in Italia, era il pomeriggio della California, ne parleremo nella seconda parte. Mentre sto parlando, a Trieste si sta svolgendo l'ultima parte di State of the Net, un appuntamento nato dall'idea di Beniamino Pagliaro, Paolo Valdemarin e Sergio Maestrello. Un ottimo appuntamento, un'ottima occasione per fare il punto sullo stato della rete in Italia. Una 2 giorni per riflettere, capire, ascoltare, imparare cose nuove, incontrare anche alcune delle persone che contribuiscono a creare, a far crescere l'economia digitale anche in Italia. Allora, a proposito di State of the Net, che tradotto in italiano sta per lo stato della rete, cioè come sta la rete internet in Italia. Allora, per capire in che stato è la internet italiana, Vincenzo Cosenza, che è responsabile di Blog Meter Roma, ha portato a Trieste una serie di numeri che descrivono molto bene come stanno le cose. Sì, gli ultimi dati AudiWeb Nielsen ci dicono che appunto gli italiani che hanno la possibilità potenziale di accedere alla rete sono intorno ai 40 milioni, però il dato interessante è che in realtà quelli che accedono almeno una volta al mese sono 28 milioni e mezzo e ancora di più questo dato si abbassa se andiamo a vedere nel giorno medio quanti italiani sono su internet, sono 14 milioni. Un dato interessante soprattutto se poi lo guardiamo alla luce di dove vanno gli italiani in rete, e quindi qui scopriamo che chiaramente il luogo di destinazione preferito, la piazza preferita è Facebook, e addirittura su Facebook, oltre ad esserci 22 milioni di persone, ogni giorno, secondo i dati ufficiali di Facebook Italia, ce ne sarebbero 14 milioni, quindi è vero, con metodologie diverse, però potremmo dire che gli italiani giornalmente un passaggio su Facebook ce lo fanno tutti gli italiani che visitano la rete. Cioè, paradossalmente potremmo dire che ci sono quasi più italiani che stanno su Facebook o che comunque fanno qualche cosa su Facebook piuttosto che quelli che guardano pagine web di informazione o altri tipi di pagine web. Sì, un dato interessante è che il numero di pagine viste in questo anno rispetto allo scorso anno è diminuito per persone. Le persone guardano meno pagine, stanno più su internet ma guardano meno pagine. Probabilmente hanno dei luoghi di destinazione che frequentano e quelli utilizzano anche per informarsi. Quindi su tutti Facebook diventa anche un luogo dove trovare dell'informazione. Questo a mio avviso è molto interessante per tutti gli altri attori del web che finora insomma erano i protagonisti. Uno potrebbe pensare se sentendo che la stragrande maggioranza delle persone che sono in rete stanno su Facebook, che quindi l'utilizzo che di internet ne viene fatto in Italia è un utilizzo ludico, comunque in buona parte per perdere tempo. Qual è il tuo parere? No, io quello che vedo è che in realtà Facebook ha dato la possibilità agli italiani, alle persone, di ritrovare in un unico luogo tante cose, quindi c'è sicuramente l'aspetto ludico, i giochi, le applicazioni, ma c'è l'aspetto di comunicazione, il contatto con le persone che magari non si vedono tutti i giorni e quindi possono rimanere in qualche modo in contatto con dei piccoli segnali, il like è un segnale di vicinanza in fondo. però su Facebook gli italiani si informano anche. Questo per alcuni è un problema, per altri un'opportunità, ma non è assolutamente da escludere il fatto che gli italiani su Facebook si informano, vedono passare le notizie perché i propri amici le condividono, poi magari le vanno ad approfondire sui siti di destinazione originari, però questo è un uso che si fa di Facebook. Senti, spiegaci come guardare bene a questo fenomeno, perché stiamo parlando di un fenomeno che può sembrare mass media, cioè potrebbe sembrare che Facebook è un po' come i 20 milioni di italiani che guardano la partita su un canale nazionale televisivo. In realtà non è proprio così. Spiegaci un po'. Sì, non è proprio così, perché in qualche modo ha un flusso di informazioni che su Facebook, che c'è su Facebook, di media tradizionali, se vogliamo, che danno informazioni, aziende che danno informazioni in maniera unidirezionale. C'è un flusso di notizie che in realtà viene dal basso, dalle persone che condividono cose, che condividono opinioni, non per forza notizie, e che quindi aggregano, quindi danno notizie ad altri come loro, di fatto. Quindi accanto a un media che è un po' contaminato da logiche tradizionali, c'è una contaminazione invece dal basso, da logiche di notizie molto personali, che però sono interessanti per coloro che stanno in una determinata cerchia di quindi amicizia. Estremamente frammentato. Estremamente frammentato, assolutamente. Infatti uno dei problemi e diciamo dei punti di educazione di una nuova cultura digitale dovrebbero essere proprio quelli di far comprendere alle persone che la propria rete va costruita in maniera molto attenta, perché da quella rete passeranno le informazioni. Se io costruisco una rete molto ampia, mettendo persone che non conosco, di cui non conosco neanche le abitudini, non conosco neanche chi sono, eccetera, mi ritroverò un flusso di notizie che magari non mi interessa, e perderò le notizie che magari mi interessano, più interessanti. Visto che abbiamo citato Facebook, che è un social, che è il social network, sì, oggi, gli altri social network che audience hanno? Cioè sono rilevanti o non ancora? Ma per quanto riguarda l'audience, dopo Facebook in Italia c'è Twitter, 3,6 milioni di visitatori mensili, ha avuto un boom in questo anno anche grazie al tamtam mediatico, soprattutto dovuto a Fiorello, eccetera. Quindi gli italiani hanno sentito curiosità verso questo social network e si sono di fatto iscritti. Però nonostante tutto siamo dai 22, esatto, milioni, 14, sì, milioni, come diceva, di più frequenti visitatori di Facebook, siamo a 3,6 milioni, pochissimi, potremmo dire. Esatto, c'è un abisso, perché Facebook, come ti dicevo, è riuscita a costruire un luogo, una sorta di centro commerciale all'americana, in cui c'è tutto, c'è il divertimento, c'è l'approfondimento, eventualmente c'è un po' di tutto, ci sono gli amici. E su Twitter invece si possono in pratica fare cose con una minore entità, non puoi giocare su Twitter, non puoi approfondire dei discorsi, delle discussioni, è tutto molto frammentato, ti limiti a dare un'opinione di 140 caratteri, questo lo limita un po', ma è anche l'opportunità di Twitter, il suo punto di forza di fatto. Dopo Twitter c'è LinkedIn, anche in questo caso numeri intorno ai 3 milioni, gli utenti dichiarati dalla stessa piattaforma sono 3,5 milioni, però anche questo è un social network che è riuscito a trovare una sua nicchia e a differenziarsi rispetto agli altri. Sto su LinkedIn perché cerco di costruire una rete che mi può essere utile per il mio lavoro attuale o futuro. Quello che non è ancora riuscito ad avere un motivo di differenziazione è Google Plus, che pure ha intorno ai 3 milioni di visitatori, 2,6 milioni l'ultima rilevazione, ma ancora non è ben distinto rispetto agli altri social, quindi c'è un motivo d'attenzione di Google proprio in questo senso. Poi ci sono, non so, Pinterest della situazione, che è visitato da pochissime persone, 500,000 l'ultima rilevazione, di cui si parla molto, ma in realtà poi è poco frequentato. Eh sì, numeri interessanti quelli che Vincenzo Cosenza, che è responsabile di Blogmeter Roma, ha raccontato ieri nella prima giornata di State of the Net a Trieste. Ho partecipato a questa prima giornata, ripeto, un appuntamento molto interessante, ben organizzato e tra l'altro in una bella città come Trieste. Tra poco continueremo a parlare di questo tema, perché oltre i numeri che ci descrivono una parte della rete, perché abbiamo raccontato la parte social della rete, poi ci sono anche i siti e i portali internet, ma nessuno fa i numeri di Facebook, ma nemmeno direi di Twitter, che nonostante tutto ha 3,6 milioni di persone che in qualche modo dialogano. Continueremo per capire che tutto ciò può essere misurato e valutato. Ne parliamo tra poco. 2024. Riprende 2024 oggi con Carmelo Lauricella che si occupa della parte tecnica. Ieri ho partecipato alla prima giornata di State of the Net che si sta concludendo proprio in queste ore mentre stiamo parlando a Trieste. Abbiamo parlato molto di social network, uno dei fenomeni naturalmente in crescita in questi anni. Tutto il, chiamiamolo rumore, le chiacchiere che si fanno, le cose che vengono scritte, le fotografie, ma soprattutto le cose che vengono scritte sui social network, si può misurare e valutare. Come? Beh, naturalmente ci sono tanti approcci diversi, tante filosofie, tante tecniche diverse, tanti software, piattaforme che ci aiutano a misurare tutto ciò, ma in generale ci spiega che cosa sta accadendo e come si fa e che cosa si riesce a misurare Paolo Marenzoni, che è responsabile della parte digital di Image Building. Assistiamo a dei fenomeni di una certa portata al giorno d'oggi che avvengono fra la rete e i social network, che nascono nei social network e poi si diffondono alla rete. Esistono dei post, delle opinioni di utenti, delle foto che nel giro di poche ore assumono la cosiddetta viralità molto alta. Cosa significa? Significa che io scrivo che un prodotto mi fa schifo, scrivo, posto una foto di qualche cosa, di qualche soggetto strano, e se ho un potere sufficiente riesco a far sì che nel giro di poco tempo tante persone si prendano la briga di rigirare questo contenuto agli amici, di dire mi piace, di ripostarlo su un altro blog, di innescare questo meccanismo che ormai si usa a chiamare viralità. Le persone che sulla rete sono in grado, persone, siti, blogger, mainstream tradizionali, che sono capaci di innescare questo meccanismo, sono persone che in qualche modo su cui dobbiamo allertarci, perché possono farci del bene, possono farci del male, non sappiamo ancora bene quantificare che impatto abbiano. Però l'importante è sapere che possono esistere queste persone, questi profili, detto in senso lato, da tenere particolarmente sott'occhio, e se siamo dei responsabili comunicazione, media relation manager, responsabili marketing, dobbiamo sapere che esistono perché possono diventare dei nostri interlocutori importanti. Quindi ci stai dicendo che quello che noi scriviamo su Twitter, su Facebook, su tanti altri social network si può innanzitutto intercettare e leggere, quindi, e anche misurare? Sì, infatti esistono varie società, fra cui la nostra, che hanno proprio come obiettivo quello di intercettare il più possibile e di analizzare tutto il materiale che viene postato in rete, che viene scritto, che viene commentato, e hanno anche l'ambizione di cercare di scremare questo materiale. Perché? Perché appunto, come dicevo, un post può essere scritto da una persona e suscitare talmente tanto interesse tale per cui nel giro di poche ore viene ripreso e condiviso da altre migliaia di persone. Il nostro compito è anche quello di quantificare, di determinare delle soglie di attenzione per non dover rincorrere tutte queste migliaia, centinaia di migliaia di post che vengono immessi nella rete ogni giorno e che, se siamo un'azienda famosa, ci toccano in continuazione, ma non possiamo prestare attenzione a tutto. È importante focalizzare l'attenzione sui messaggi importanti, critici, belli o brutti, e sulle persone che spostano l'opinione pubblica e quindi possono determinare la nostra reputazione. Questa analisi viene fatta in modo automatico con dei software o c'è un intervento umano, e quanto è forte questo intervento? Nel nostro caso abbiamo puntato molto sul software, ma molto anche sull'intervento umano, proprio perché la quantità di materiale che gira in rete è tantissima. È importante che ci sia una redazione che seleziona le fonti proprio in base ai criteri che abbiamo detto prima. A solo a fonti di rilievo presta una particolare attenzione, e poi soprattutto, essendo soprattutto in questi media tipo Twitter basati su messaggi molto brevi e con slang, con linguaggi un po' particolari, diciamo la redazione redazione è fondamentale proprio per cercare di determinare il tono e la criticità di certi messaggi e soprattutto di sapere identificare qual è il momento in cui ci si deve allertare oppure quando si può lasciar correre. Quindi le macchine non sono ancora capaci di capire soprattutto il tono con cui noi scriviamo una cosa, che può essere ironico, può essere di forte critica o magari ad esempio positivo perché c'è un'ironia particolare. Assolutamente, soprattutto appunto dicevo con i social network questo confine si è spostato, per cui l'intervento umano paradossalmente ma è diventato ancora molto importante, per cui la macchina fa il 50%. Senti, esistono gli influencer, cioè le persone che riescono ad influenzare la rete, esistono? Allora, oggi è uno dei temi più caldi, diciamo che esistono dei soggetti sulla rete che sono in grado di fare compiere tante azioni al pubblico e diciamo che per ora ci accontentiamo di determinare, di riuscire ad identificare questi soggetti, siano persone fisiche, siano siti, siano blogger, che riescono ad innescare questo meccanismo che sulla rete è misurabile, per cui è molto bello questo aspetto quantitativo, cioè di poter misurare la reazione che suscito in chi mi legge. Quindi le persone che mi leggono e passano quello che ho scritto agli amici oppure esprimono un voto, un mi piace, questa operazione è misurabile e ci permette di poter identificare queste persone che sono più influenti sulla rete. Che siano poi effettivamente soggetti nuovi o quelli che ci aspettiamo essere, cioè i mega portaloni generalisti o finanziari nel caso della finanza, è un tema abbastanza delicato, però diciamo perché comunque i grossi portaloni, i mainstream, sono comunque sempre dei grandissimi influenzatori. È importante però identificare anche i soggetti nuovi o gli utenti, fra virgolette, domestici, che comunque avendo un grosso seguito o scrivendo, postando messaggi molto, come dire, azzeccati, riescono a spostare comunque le azioni dell'opinione pubblica. Senti, ti faccio anche una domanda sul software, visto che immagino che nei prossimi anni questo business diventerà sempre più importante. Voi vi siete scritti software in casa, per quale motivo? Diciamo che è un mondo, proprio nelle fasi iniziali ancora, se pensate alla diffusione che ha avuto Facebook, che ha avuto Twitter, soprattutto in quest'ultimo anno. Per cui, essendo così in evoluzione, è veramente difficile poter dire questo pezzo di software lo vado a prendere già pronto, perché chi è più avanti di noi, magari gli Stati Uniti, i paesi anglosassoni, hanno anche il problema della lingua, a cui facevamo riferimento poco fa, l'interpretazione del tono, per cui diciamo che una soluzione molto flessibile è quella, avendo le persone brave e giuste, di potersi ricostruire tutto in casa, perché nel giro di 6 mesi si può cambiare veramente molto, perché nasce un nuovo social network, nasce un nuovo criterio di misurazione. Se non hai tutto il software in casa è difficile, perché devi sempre andare a chiedere a chi ti fornisce il software: mi cambi, mi sposti, aggiungi un parametro, aggiungi un social network. Ultima domanda, la politica si è accorta di tutto ciò? Secondo me si stanno iniziando ad accorgere, vediamo veramente quelle poche opportunità che abbiamo avuto ancora, ma di analizzare quel mondo, è un mondo che sta suscitando dal punto di vista del pubblico tantissimo interesse, tantissimi post, tantissimi tweet, viralità altissime dei messaggi. Ho l'impressione che anche il mondo della politica si stia interessando a questo fenomeno, perché è questo il mezzo che può iniziare a spostare l'opinione pubblica. Era la voce di Paolo Marenzoni, che è responsabile dell'area digital di Image Building. E dicevo che ci sono, società che stanno crescendo, una vera e propria economia digitale che si sta creando anche per ascoltare quello che si dice, che si scrive in rete. Ricordate che recentemente abbiamo parlato di Big Data, di questo grande fenomeno della creazione in rete da tantissime fonti di informazioni e quindi in definitiva di dati che vanno raccolti e analizzati, e naturalmente la capacità di analisi fa la differenza tra una società ed un'altra, tra un consulente ed un altro. E il tema dei big data è sicuramente collegato all'ascolto di quello che accade all'interno dei social network. E pensate che noi siamo anche fortunati perché ci limitiamo, o almeno quasi tutte le aziende italiane si limitano alla lingua italiana. Pensate se allarghiamo lo sguardo alla lingua inglese, un caos incredibile, e lì i big data sono ancora più big, ancora più grandi. Allora qui naturalmente entrano in gioco tanti fattori, anche la capacità di costruire e realizzare il software. Oh, attenzione, perché stiamo parlando di un fenomeno nuovo, quindi anche gli esperti ancora non ci hanno capito tutto, un fenomeno in continua evoluzione, in rapida evoluzione. Una delle domande che ci siamo fatti all'interno di State of the Net, se esistono ad esempio dei veri e propri influencer nella rete, cioè ci sono delle persone che effettivamente possono influenzare e dirigere la discussione, cambiare quello che sta succedendo in rete, magari far girare una discussione in una direzione rispetto ad un'altra. Alcuni ritengono di sì, alcuni ritengono di no. Sicuramente, questo è un mio parere, alcuni fenomeni sono sovrastimati, cioè ci sono persone che vengono ritenute degli influencer e poi in realtà non spostano un granché, e molto spesso gli influencer sono quelli poi dei grandi media. Pensiamo ad esempio al grande fenomeno di Fiorello o altri fenomeni. Sono le 15:52 minuti, adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Parliamo di rete a banda larga. Il ministro dello sviluppo economico Passera, parlando alla Camera, ha detto che il 5% della popolazione vive in aree ancora in digital divide. Per risolvere questo problema è messo meglio, pensate, il Sud, perché al Sud ci sono 700 milioni pronti da destinare di fondi europei, mentre al Nord non ci sono. La copertura delle aree periferiche, soprattutto periferiche del Nord, è, secondo Passera, il singolo problema più grande che abbiamo, perché i privati tendono a non andare in queste zone e non ci sono fondi europei. Alla Camera ha parlato in settimana anche il neoeletto presidente dell'Agicom, l'autorità per le comunicazioni, Marcello Cardani, e ha detto: il fatto che il 53% dei cittadini vive in centri con meno di 30.000 abitanti rende la creazione della rete ad alta velocità più complessa e contemporaneamente rende anche più importante il tema dell'inclusione e dell'uguaglianza sociale. Il Consiglio europeo del 28 e 29, quindi della prossima settimana, avrà sul tavolo anche una lettera scritta dagli operatori di telecomunicazioni europei, gli ex monopolisti, tipo Telecom Italia ad esempio, che chiedono a Bruxelles meno regole per poter investire 300 miliardi di euro necessari per creare entro il 2020 le reti a banda larga ultraveloce. Sostanzialmente dicono: vogliamo meno obblighi rispetto a quelli che oggi abbiamo, quindi possiamo far più soldi e in questo modo possiamo investire. Il problema è capire se questi soldi vengono fatti perché il mercato si allarga o perché le tariffe vengono aumentate, quindi poi questi soldi vengono presi dai clienti finali. L'ultima notizia riguarda l'ACTA, lo ricorderete, il trattato internazionale anticontraffazione che ha suscitato tante polemiche in Europa, gente scesa in piazza soprattutto in Germania, Polonia, eccetera eccetera. Il Comitato Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha rigettato il trattato ACTA e il voto no, ma a questo punto dovrebbe essere definitivo, dovrebbe arrivare dal Parlamento Europeo in sessione plenaria nelle prossime settimane. Bene, ci risentiamo dopo le notizie di GR24, parleremo di Surface, di questo annuncio di Microsoft, ma naturalmente parleremo anche di tablet, di netbook, di portatili, perché c'è chi dice: ma questo è un portatile o è un tablet? Beh, ne parliamo tra poco, numero verde 80024 0024, a tra poco. 2024. This is the new Microsoft Surface. E potremmo dire noi, this is Steve Ballmer, il capo di Microsoft, che ha presentato martedì o lunedì, dipende dai punti di vista, cioè dipende dal fuso orario. In Italia era già la notte di martedì, lunedì pomeriggio a Los Angeles, Surface, il nuovo tablet, anche se alcuni dicono, ma siamo sicuri che è un tablet? Non lo so. Luca Figini, bentornato, buongiorno, ciao. Buongiorno a voi, ciao. Luca Figini è responsabile di una rivista che si occupa proprio di tablet, perché si chiama Portatili e Tablet, lavora nella ricca e numerosa redazione creata da Massimo Morandi con Cellulare Magazine e tutte le altre pubblicazioni, Smartphone Magazine, eccetera, eccetera. Dunque Luca, partiamo proprio da qui. Hanno presentato un tablet o un computer portatile? In realtà hanno presentato entrambi. Ah, perché è vero che è una famiglia. È una famiglia, Surface, che poi in italiano si traduce come superficie. In realtà sotto la superficie c'è molto di più rispetto a quello che poi testimonia il suo nome. Nel senso che, rispondendo alla tua domanda, ci sono due modelli di Surface, Surface e Surface Pro. La differenza per capire quando è un tablet, quando è un PC o un ultra portatile, eccetera, sta nel sistema operativo in questo caso, nel senso che Surface è basato su Windows RT, che è Windows 8 compattato. RT sta per real time, quindi significa che RT è il sistema operativo di base, e quindi praticamente una sorta di piattaforma su cui le app appoggiano, ma sfruttano questa piattaforma per funzionare. Comunque insomma, sistema operativo per tablet. Per tablet. Quindi Windows RT, che non è ancora uscito, uscirà verso la fine dell'anno. Autunno inoltrato. Surface Pro invece è basato su Windows 8 Pro, quindi è un sistema operativo a tutti gli effetti, e quindi permette di far funzionare tutte le app, tutti i software tradizionali per computer, quindi la differenza è qua. L'utente finale se ne accorge? L'utente finale se ne accorge nel momento in cui, per esempio, prova a far andare, non so, Photoshop piuttosto che un'altra applicazione che è abituato a usare sul PC normale. Su Windows, su Surface Pro riuscirà a farla andare, su Surface verosimilmente, anzi quasi sicuramente, non riuscirà a farla andare. Ci vorrà l'app dedicata, anche perché cambia radicalmente l'hardware alla base dei due tablet. Surface ha un processore ARM, Surface Pro ha un processore Intel, quindi un processore derivato dal PC. Sì, le cose non so se sembra o in realtà si complicano proprio. Perché effettivamente stiamo parlando di una serie di prodotti, e quindi bisogna fare un po' di chiarezza. Allora, partiamo dal tablet. Innanzitutto diciamo subito che si tratta di un tablet grosso modo uguale agli altri. Cioè, insomma, le caratteristiche fondamentali, poi ricordiamo che dovrà ancora uscire, quindi i tecnici dovranno provare, verificare se tutto quello che è stato annunciato corrisponde al vero. Alcune cose non sono state annunciate, però diciamo che la notizia è sicuramente molto interessante, perché per la prima volta, però diciamo è una delle rare volte in cui Microsoft crea sia l'hardware che il software, che non è una cosa da Microsoft, giusto Luca? No, anzi, la notizia è molto ancora più interessante perché Microsoft tenta di riprendere il pallino di innovatrice. Dopo aver lasciato spazio a Apple per tanto tempo, prima con i lettori multimediali, poi con l'iPhone, poi con l'iPad ancora, riprende un po' le redini del discorso, quindi dice bene, adesso mi metto io a fare quello che per anni hanno fatto altri. Cioè ci proviamo. E soprattutto dà un'identità al progetto Windows 8, perché finora si è parlato di Windows 8, abbiamo visto le preview, abbiamo parlato di tante cose, ma inizia a dargli un'identità. L'identità, la prima identità che ha Windows 8 è Surface, quindi questo tablet che ha caratteristiche tecniche in linea con l'offerta attuale. Se vuoi te le dico. Sì, velocemente diciamo qualcosa. Velocemente ha display touchscreen da 10,6 pollici, Windows RT o Windows 8 Pro, a seconda del modello. La risoluzione del display va dall'HD, quindi 1280x720 al Full HD 1090x1080, memoria da 32 a 128 giga in formato solido, quindi con memoria flash. Wi-Fi, per il momento si sa solo che arriverà il modello Wi-Fi, per il 3G non è ancora stato annunciato. Ma prima o poi ci dovrà essere, se no fallimento. Prima o poi dovrà esserci. Ci sarà Office su entrambi i modelli, e questa è una grande, grande iniziativa, perché chi compra Surface avrà Office in regalo. Ah. E i prezzi si presume saranno tra i $500 e $900. perché Ballmer ha detto saranno in linea con l'offerta attuale. Quindi questo è in sintesi il prodotto. Allora, una delle caratteristiche che ha attirato l'attenzione, non so se è determinante, però sicuramente è una buona idea. Sapete che i tablet, sicuramente l'iPad è stato quello che ha lanciato questa idea, ha una copertina che serve per proteggerlo, anche per attivare o disattivare il display. La Microsoft ha detto, io all'interno di questa copertina inserisco una tastiera, quindi quando apro la copertina quella è anche una tastiera. Allora è per quello che alcuni dicono, ma a questo punto se mi dai una cosa che ha anche la tastiera, questo è di fatto un computer portatile. Però tu giustamente ci dici, dipende da che sistema operativo noi utilizziamo. La tastiera fa somigliare il tablet a un computer, ma lo fa somigliare nella meccanica di utilizzo. Nel senso che sul tablet la prima interfaccia è quella touchscreen, quindi l'idea è quella di toccare il display. Dopodiché la tastiera, secondo me, è la cosa più bella e più interessante in questo momento, nel momento in cui di quello che si sa di Surface, dell'annuncio di Microsoft, perché è proprio compatta, sottile, è sottile quasi quanto quella 3 mm, come quella dell'iPad, solo che in più la tastiera. E quindi la tastiera rende, almeno a livello mentale, simile il tablet al computer. In realtà non lo è, perché poi cambia radicalmente quello che uno può farci funzionare. Sì. Dunque, se volete intervenire, perché naturalmente in questi casi ci sono le più disparate visioni di questo fenomeno che sta cambiando l'industria dei computer, dicevo, se volete intervenire ci sono varie modalità. Potete utilizzare Facebook o Twitter cercando Enrico Pagliarini oppure 2024 o anche Luca Figini, se volete, oppure la pagina di Facebook di 2024, oppure, cosa che noi preferiamo, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, o anche gli sms 349 238 6666. Visto che sì, stiamo parlando di social network molto popolati, ma ancora oggi la cosa più popolare tra tutte è il telefono e gli sms, quindi utilizzate insomma quello che desiderate. Sono le 16:15, c'è un po' di traffico sulle strade, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Le 16:16, alcuni di voi avranno notato questa settimana, andando sulla pagina di Amazon, ogni tanto faccio un giro giusto per tenere d'occhio la situazione, e effettivamente era da un po' di tempo che non andavo su Amazon.com. Allora, dovete sapere che Bezos, che è il fondatore di Amazon, nonché insomma il proprietario di Amazon, ha pubblicato un suo messaggio tenendolo in pagina per parecchio tempo, e naturalmente molti si sono chiesti, ma pensate quale impatto può avere sulle vendite tenere impegnata la prima pagina di Amazon con un messaggio, mentre normalmente ci sono offerte commerciali, quindi link a prodotti che invogliano a comprare. Allora Bezos ha pubblicato la storia di una ragazza che si è autopubblicata un libro e ha fatto un buon successo. Si chiama Jessica Park, e lui ha attirato l'attenzione su questo fenomeno, sia del self-publishing, che come il self-service del distributore, invece di farsi il pieno, uno si può pubblicare il libro tutto da solo, va su internet, ci sono tante piattaforme. Una delle più conosciute è questa di Amazon, ma ci sono tante piattaforme anche nel nostro paese che permettono di autopubblicare il proprio ebook e distribuirlo. Quindi editore fatto fuori in questo caso, perché vado direttamente in libreria. Allora, molti esperti hanno dibattuto in settimana. Io ho fatto una telefonata ad Antonio Tombolini, che è il nostro esperto per il mondo degli ebook, sicuramente il più autorevole in Italia, che da tanti anni studia questo fenomeno, e naturalmente ha anche un'azienda che lavora in questo settore, e giustamente lui fa notare, sicuramente uno dei motivi per cui Bezos ha fatto questo è allargare enormemente la platea dei self-publisher, quindi fare promozione verso questo nuovo fenomeno, ma è anche un messaggio molto chiaro agli editori. Fondamentalmente, dice Tombolini, Bezos dice agli editori, manda un messaggio molto forte, a cui dice esplicitamente: occhio che se non vi date una mossa e non vi adeguate ai cambiamenti che il mercato degli ebook sta suggerendo a tutti gli editori, beh, insomma, noi possiamo anche fare a meno di voi. Messaggio molto chiaro. Torniamo a Steve Ballmer e alla Microsoft e alla presentazione fatta questa settimana. Sentiamo due parole di Ballmer. We believe that any intersection between human and machine can be made better when all aspects of the experience, hardware and software, are considered and working together. Allora, sostanzialmente, Luca, questo è Ballmer, Steve Ballmer, dice, beh, noi crediamo che il prodotto migliore, l'esperienza migliore ci sia laddove ci sia un'accoppiata molto forte tra hardware e software. E uno potrebbe dire, beh, quello che ha sempre fatto la Apple, non la Microsoft, che non lo ha quasi mai fatto, a parte il caso più di successo che è quello della Xbox, ma è un caso, è una eccezione alla regola. Sì, copio un po' quanto è stato detto appunto da Apple, ma anche in passato per esempio da Olivetti negli anni 80 con i primi PC. Il concetto è che Microsoft deve tornare a essere cool, quindi vuol dire adesso deve tornare ad avere... Traduciamo perché uno potrebbe pensare... Deve essere appetibile per gli utenti, quindi come lo è, come sono i prodotti Apple. Sexy, affascinante. Interessante. Deve essere bello tenere in mano un prodotto Microsoft, deve tornare a essere bello tenere in mano un prodotto Microsoft. E quindi lui, Ballmer, ha iniziato a dire, bene, allora, per fare un prodotto fatto bene devo legare hardware e software a doppio filo. Che è una rivoluzione per Microsoft, perché finora il successo di Microsoft è sempre stato basato sul rapporto con i produttori, quindi la cura, quella che vengono definiti UM, cioè i produttori originali di hardware, che sono nella fattispecie Acer, Samsung. Allora, visto che li hai citati e li hai nominati, sentiamo un altro pezzetto dell'intervento fatto da Ballmer, perché questo è un altro aspetto interessante. Cioè Ballmer giustamente dice, oh, occhio, stiamo facendo questo, ma non ci dimentichiamo di tutto il resto. Those partnerships are essential to the reimagination of Windows. Queste partnership sono fondamentali. We've worked with component companies, Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, and Texas Instruments. Of course, the ultimate landing point of this PC experience. Questi erano quelli che producono i processori, eh? Adesso sentite quelli che fanno i computer. HP, Dell, Asus, Acer, Samsung, Sony, Lenovo, Toshiba. And many more, insomma tanti altri. È importante, simpaticissimo, Samsung, Toshiba, Lenovo, eccetera, eccetera. Sono tutti produttori HP, eccetera, eccetera. Quindi messaggio chiaro, Luca. È fondamentale per Microsoft e per Steve Ballmer, che poi è a capo di Microsoft, è fondamentale mantenere inalterato e assolutamente attivo l'ecosistema di produttori che sono sia quelli che fanno i computer sia quelli che fanno l'hardware, che sono nel primo insieme Intel, Qualcomm, eccetera, sono quelli che fanno l'hardware, nel secondo insieme ci sono quelli che fanno i computer, che sono le due facce del prodotto Microsoft, perché il prodotto Microsoft è all'interno di queste due realtà, di questi due insiemi, ed è anche l'unione, il collante fra i due. C'è da dire un'altra cosa oltretutto, che giusto ieri Oliver Ahrens, che è il vice president di Acer ed è responsabile a livello europeo, ha commentato su un aspetto, cioè la domanda implicita era: può Microsoft con questo, con Surface, creare una sorta di competizione interna tra lei che fornisce un prodotto che è Windows 8 e coloro che utilizzano il suo prodotto che sono i PC o i tablet del futuro? E Ahrens dice non si può essere considerati un produttore di hardware con solo due prodotti che oltretutto sono dei prototipi. Questa è la posizione fondamentalmente dei produttori di PC, cioè Microsoft ci ha fatto vedere un prototipo, ma poi lo produrremo noi, e quindi di fatto in questa fase di presentazione non c'è una concorrenza. Senti, chi lo produrrà? Si sa? Perché allora, i prodotti Apple sappiamo che li produce Foxconn. No, non si sa. Ah, non si sa. Si sa qualcosa sull'hardware, ma non si sa chi poi alla fine lo produrrà o lo realizzerà. Se è vero quello che dice Acer, questo è un prototipo, quindi probabilmente ci sarà sì anche un prodotto Microsoft, ma ci saranno anche tanti altri prodotti simili con le stesse fattispecie. Senti, questo prodotto ha effettivamente qualche cosa in più? Perché c'è chi ha detto in settimana, si è detto di tutto, perché non ho mai visto così tanto, settimane in cui si parlava tanto in rete, però devo dire che Microsoft è riuscita ad attirare un po' di attenzione questa settimana. Tra l'altro questo annuncio che è stato fatto in gran segreto, fino a poche ore prima non si sapeva dove sarebbe stata la conferenza stampa, insomma hanno tentato di fare un evento alla Apple con tanto suspense, tanto mistero. Dicevo, c'è chi ha detto che dovrà avere un prezzo molto competitivo, addirittura più basso dell'iPad per avere successo, perché sennò uno va e compra l'iPad se il prezzo è uguale. Tu ritieni che abbia qualche cosa in più? Io ritengo che è sufficiente che abbia un prezzo paragonabile a quello dell'iPad, perché Office e l'ecosistema Windows è un valore aggiunto in più rispetto all'iPad. I prodotti che dovrebbero avere un prezzo inferiore all'iPad sono quelli Android, perché Android obbliga un'esperienza d'uso completamente diversa e obbliga comunque a fare delle rinunce rispetto a un iPad. Microsoft, vendendo il suo tablet allo stesso prezzo di un iPad, o comunque chi produrrà il tablet secondo Microsoft vendendo allo stesso prezzo dell'iPad, offre in più una suite Office e offre in più la piena integrazione tra tablet, computer e telefonino, perché l'altro annuncio importante di questa settimana di Microsoft è stato Windows Phone 8, e Windows Phone 8 è di fatto l'anello di congiunzione tra il tablet e il PC. Dopodiché ci si può chiedere: è giusto che Microsoft porti l'esperienza PC sul tablet e non faccia il contrario, cioè come Apple produca un oggetto complementare e non in qualche modo sovrapposto a quello di PC? Sì, è giusto nel momento in cui tiene il prezzo basso, cioè se il primo prezzo è 499 euro con Office, con Windows, con una serie di specifiche tali, diventa un concorrente non indifferente per l'iPad, è anche un grosso problema per Android. Sì. 16:25 minuti, sentiamo Alberto che ci telefona da Padova. Ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta fino alle 17, 800 24 00 24. Alberto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ciao Enrico, è un piacere poter partecipare alla vostra trasmissione. Io è un po' che seguo appunto il discorso dei tablet, perché potrebbe essere un sistema per potersi svincolare dallo studio dove sei chiuso dentro e leggerti, penso, gli articoli o la posta, magari seduto sul divano via wifi. O anche sul treno, sull'autobus, mentre sei al parco, eccetera, eccetera. Come dicono gli americani, on the go. On the go. On the go. Senti, niente, è che più un po' quello che senti poi scopri sempre delle cose nuove che magari non sapevi. Mi sembra che su PC professionale leggevo che l'utilizzo delle periferiche come le stampanti con sistemi Android non sono così automatici. Io poi, non so, a me piaceva l'idea, nonostante tutto, di provare a aspettare a vedere cosa veniva fuori con Windows, però su quello che ho letto, se non ricordo male, su D-Day, abbiamo che con il sistema Windows 8 Pro hai un computer che ci mette 2 minuti ad accendersi. Io credo che per il tablet sia essenziale che io premo il bottone, come l'iPod che mia moglie usa, immediatamente sia acceso e vai su internet in pochi istanti. Corretto, sì. Quindi tu dici, sei preoccupato? Nel senso che sono preoccupato, perché poi sentendo Windows RT non so che cosa posso realmente farci, perché ad esempio io utilizzo sempre Chrome, comodissimo, e utilizzo sul computer Foxit Reader, che è gratuito e fa quello che faceva Acrobat, che mi ero comprato tanti anni fa e adesso è superato, però non so se potrò utilizzarlo ad esempio su una periferica o Android oppure con Windows RT, perché non so se poi le specifiche lo consentiranno. Ma è essenziale per me ad esempio utilizzare questo tipo di programma per poter evidenziare, sottolineare o fare commenti sugli articoli scientifici che leggo. Alberto, grazie per essere intervenuto, per averci chiamato. Luca, questo argomento ti rimballo il problema delle app, perché espandendo il discorso dell'ascoltatore... Spieghiamo, perché tira in ballo le app? È perché se arriva un ulteriore player, allora oggi i tablet per più di 2/3 sono iPad, e quindi di fatto uno compra l'iPad, verosimilmente ha un iPhone, eccetera, per cui c'è condivisione delle app. Con un ulteriore terzo sistema operativo che è predicato diventare il vero concorrente dell'iPad, diversifica ulteriormente il paniere dei sistemi operativi disponibili. Quindi ci sarà iOS, che sarà solo su un modello, l'iPad, Android, che sarà su una pletora di modelli, e Windows 8, che sarà altrettanto su una pletora di modelli, dove le app saranno simili l'uno con l'altro. Word è probabile che arriverà a novembre anche per iOS, ma ci sarà anche su Windows, su Surface o su Windows 8. Ho fatto un esempio, potrebbero essere Foxit piuttosto che altri. Quindi gli sviluppatori di app devono necessariamente iniziare a porsi il problema che le app, indipendentemente da dove le scarico, da dove le uso, devono mantenere inalterati i dati. Johnny Cash diceva: le persone vogliono il reame, ma non vogliono il Dio. Cioè, le persone devono poter essere sempre connesse con i loro dati, usando l'app indipendentemente dal dispositivo, e avere comunque scaricati in automatico, sincronizzati in automatico le loro informazioni. Quindi questo significa una serie di cose che diciamo dopo la pubblicità. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che troverete un ottimo podcast poco dopo il termine della nostra trasmissione, con qualche contenuto extra solo per chi ascolta in podcast, alcune interviste che abbiamo realizzato nella prima parte dedicata a State of the Net, le metteremo in versione integrale nella nostra versione podcast, dove c'è più spazio. In internet lo spazio non è infinito, ma sicuramente più elevato rispetto all'etere e rispetto ai clock orari imposti dalla radio. Dunque, è con noi Luca Figini in questa puntata che abbiamo deciso di dedicare all'annuncio fatto da Microsoft con Steve Ballmer, che ha presentato, poi non c'era solo Steve Ballmer, anche altre persone, che ha presentato Surface, questo nuovo prodotto, questo tablet che uscirà alla fine dell'anno. Ma la novità non è tanto questa, sicuramente c'è un cambiamento di rotta di Microsoft, ma questa è un'occasione per riparlare di uno strumento che sta effettivamente cambiando le dinamiche del mercato. Un nostro ascoltatore ci sollecita nel dire che anche questa volta durante la presentazione il prodotto Microsoft si è piantato. Non so se facciano apposta a questo punto, perché tutte le volte non lo so, però spesso qualche cosa si pianta quando c'è una presentazione di Microsoft. Secondo me è un augurio, anzi è una perché l'ultimo grande blocco durante una presentazione di Microsoft è stato con Windows XP, e Windows XP è stato un grande successo di vendite, quindi se io gli auguro che sia un augurio questo. Vedremo, non è detto. Sentiamo un nostro ascoltatore che ancora non abbiamo, che ci sollecitava un tema sicuramente interessante. Tra le novità che sono state presentate, non tanto in questo caso ma negli ultimi mesi, anche questo è un cambiamento di rotta abbastanza importante. Allora, noi tutti sanno che cos'è Intel, è un grande produttore di processori per computer. Pochi sanno che cos'è ARM, che è una piattaforma, è un'architettura, un modo per costruire microprocessori che ha avuto un grandissimo successo nell'ambito mobile, quindi smartphone e tablet. Allora, Microsoft, scegliendo questa nuova visione di Windows 8, ha per la prima volta accettato l'idea di fare un prodotto anche per questi processori. Perché è importante questo cambiamento? È importante perché ARM, innanzitutto perché ARM è la piattaforma, l'architettura più diffusa in ambito sui dispositivi mobili. Il 75% dei dispositivi mobili sono basati su processori ARM. L'architettura ARM a sua volta è utilizzata da tantissimi processori, per esempio i processori che si trovano sul Samsung, sui Galaxy, l'Apple A5 sull'iPad e sull'iPhone, il Tegra 3, i Tegra, sono tutti basati sulla stessa piattaforma, la stessa architettura, che è ARM. E ARM, rispetto a Intel, ARM È un'azienda britannica. È un'azienda britannica, sì. Ti dirò anche di più. È stata fondata, sì, insieme ad Apple nel 1990. Cioè, c'era questa azienda britannica che si chiamava Acorn, metà anni 80, che aveva ideato questa architettura molto particolare. Per i più tecnici, è un'architettura definita RISC. Sì. Cioè, sono istruzioni molto semplici e banali, però che messe insieme creano un'istruzione. Esatto, il modo di costruire il processore. Il motore diesel, il motore benzina. Esattamente. Nel 1980, insieme ad Apple, Acorn e Apple hanno fondato ARM. E da lì poi è stato 1990. E da lì in poi è stato una escalation di vittorie. Visto che hai aperto la parentesi prima di chiuderla, diciamo che la differenza fondamentale, che è diciamo uno dei grandi asset strategici e competitivi di Intel, è che Intel ha tutta la catena del valore e anche le fabbriche. Un grande vantaggio di Intel è che effettivamente ancora oggi propone sul mercato i processori tecnologicamente più avanzati perché ha le fabbriche. Azienda di ingegneri che capiscono cosa si deve fare fino alla fabbrica. Tutti gli altri, direi, e ARM in modo particolare, fa una cosa diversa. Non ha le fabbriche, perché ci sono altri che lavorano in outsource, e fanno solo il progetto e lo vendono a tutti. Cioè io e te potremmo metterci d'accordo, utilizzare l'architettura ARM e andare da uno che ha la fabbrica pagando delle licenze e tutto il gioco è fatto. Che è quello che fa Samsung, Apple. Mm. Sì, l'approccio al il modello di business è proprio contrapposto la creazione di ingegneristica di Apple, di Intel, verso una sorta di approccio social di ARM. ARM crea un'architettura e chiunque la può utilizzare. Che poi di fatto questo approccio di ARM ha permesso di creare smartphone e tablet con una semplicità incredibile. Sì, effettivamente oggi, sempre tornando all'esempio di io e Figini, che potremmo costruire un tablet perché tutti i pezzi sono a disposizione. È come quei mattoncini Lego, perché il processore lo prendo da Qualcomm, da Texas Instruments o da Nvidia col Tegra ed è ARM. I display qualcuno li crea, perché Sharp piuttosto che LG, piuttosto che Philips, piuttosto che Samsung creano i touchscreen. E ho già i due componenti fondamentali, processore, quindi piattaforma hardware e touchscreen. Wi-Fi, anche quello produce qualcuno, posso comprarlo. E alla manca fine... il software? Manca il software, ma Android. Però su questo sentiamo Alessandro da Torino. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, salve. Prego. Io ho chiamato, vi ringrazio per la disponibilità, perché volevo proporvi una declinazione del discorso leggermente diversa, e cioè... è possibile secondo voi che in un momento in cui chiaramente la crisi si riflette anche su questo tipo di scelte, quindi gli utilizzatori sono magari più attenti a risparmiare anche sulla parte del sistema operativo in modo maggiore che nel passato, è possibile secondo voi che oggi soprattutto in concomitanza con piattaforme Linux sempre più evolute, sempre più user friendly, no? Sempre più compatibili, Microsoft si vede perdere sempre più quote e quindi vada ad aggredire mercati, parlo quelli del connubio hardware e software, che sono stati fino a ieri tipicamente un appannaggio della Apple, proprio per far fronte a queste quote di mercato che si vede sempre più erodere da queste piattaforme open. Non so quanto Android possa essere annoverata tra queste, ma magari un po' sì. Sì, direi di sì, però non so, ma lo chiediamo a Figini, che conosce anche i numeri del mercato, se queste piattaforme stanno effettivamente erodendo quote di mercato, perché sappiamo che nel mercato degli smartphone è un'altra cosa, ma almeno nel mercato dei tablet la stragrande maggioranza del mercato, cioè i due terzi del mercato, li fa Apple. Quello che dice Alessandro è, cioè questo successo, è un successo o mica tanto di Android? Allora, dividiamo i mercati. Nel mercato PC Microsoft è dominante, siamo ancora... Sì, no, ma parliamo di tablet. Esatto. Nel mercato dei tablet è gioco forza per Microsoft in questo momento abbinare hardware e software, perché effettivamente sì. L'approccio di Microsoft, quello che vuole fare è far vedere che può fare entrambe le cose e ha bisogno di cimentarsi in prima persona nei confronti di un'altra azienda che si cimenta in prima persona, che è Apple. Sì, però ha ragione Alessandro, cioè il tema che lui solleva è vero guardando al mercato, sì o no? Cioè vuol dire queste piattaforme open, Android su tutte, stanno erodendo il mercato e quindi Microsoft dice attenzione, mi faccio una cosa diversa, faccio hardware e software insieme per andare a infilarmi e rubare di nuovo quote di mercato. Sul tablet, diciamo una cosa, non c'è Microsoft sui tablet, quindi sì. Microsoft deve ancora arrivare, quindi certo. È Microsoft che eroderà il mercato di Android e eroderà quello di Apple, non è viceversa. Vabbè, secondo me queste piattaforme open non stanno erodendo quote di mercato, perché sta vincendo Apple, ecco. Quindi è Microsoft che andrà a erodere, non viceversa. Sì, no, però quindi non è vero che Android sta, Microsoft entra sul mercato per andare a combattere Apple. Apple. Perfetto. Cesare da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, avevo una piccola considerazione per quanto avevo sentito prima, visto che sembra che non ci avere Android porti in dote delle limitazioni. A me non sembra, perché personalmente sono possessore di un tablet pagato meno di 200 euro, dual core, capacitivo, di una ditta che comunque non è molto conosciuta e non ho riscontrato molte rinunce, anzi a voler vedere chi ha l'iPad deve rinunciare a certe cose. Mm. Ma lei l'ha provato l'iPad? Sì, l'ho provato. Ce l'ha tenuto tipo qualche mese? Sì, è tenuto qualche mese, ma sinceramente a livello di fruizione browser, internet, così mi sembra in certi casi inferiore. Ma non lo so, dipende dalle esigenze. A me sembra inferiore in quel caso lì. Poi no, è un buon punto. Io che non sono particolarmente un tifoso, cerco insomma di essere equidistante da tutto, insomma trovo che l'iPad effettivamente sia nel mercato tablet una soluzione straordinaria e fatta molto bene ad un prezzo molto competitivo. Però Figini, che effettivamente prova 500 tablet alla settimana, ci può dare una risposta. Intanto ringrazio i nostri ascoltatori che non abbiamo risalutato, ma insomma li ringrazio per averci chiamato. Prego. Secondo me il pacchetto iPad, per pacchetto intendo caratteristiche tecniche, software, quindi iOS e disponibilità di applicazioni, io lo reputo ancora un passo avanti rispetto a quantomeno un passo avanti rispetto ad Android. L'esperienza d'uso è più semplice, poi dopodiché molto varia anche in base alla capacità, diciamo, dell'utente. Android ti permette una profondità di intervento maggiore, puoi cambiare l'interfaccia, puoi fare tante cose, se sei un po' un smanettone puoi smanettarci realmente su Android, però il pacchetto in termini di app, di disponibilità, di sicurezza, anche di affidabilità di iPad in questo momento, forse solo Surface riuscirà a essere pari. Comunque in generale, tornando alla quello che dicevamo prima, che oggi è possibile produrre, di fatto molti lo fanno proprio in questo modo, produrre un tablet mettendo assieme tanti pezzetti come si fa con il Lego, con le costruzioni, questo non si è rivelato un grande successo. Non si è rivelato un grande successo, diciamo, nella maggior parte dei casi, perché per esempio Samsung, che ha fatto più o meno questo esercizio, anche se in maniera più evoluta e in maniera eccellente, è riuscita a proporre qualcosa di antagonista rispetto all'iPad. Anche qui bisogna scindere fra, diciamo, gli esperti, i grandi brand e coloro che si cimentano, e magari i grandi produttori cinesi, per esempio, piuttosto che asiatici, che lo fanno mettendo insieme i pezzi e vendendo un prodotto a basso costo. Poco fa abbiamo detto agli ascoltatori che avremmo continuato a parlare delle app, perché ci mancava un pezzetto al discorso che abbiamo fatto, ci siamo lasciati travolgere dai messaggi, abbiamo cambiato direzione, però ci tengo a concludere quel discorso. Dicevamo che l'arrivo di un prodotto, di una nuova piattaforma, perché possiamo definire una piattaforma di Microsoft, imporrà sicuramente il mercato di accelerare l'arrivo delle web app, di modo che io posso cambiare tablet e sistema operativo e posso continuare a usare i miei prodotti. Dico bene? Spieghiamo meglio, Luca. È urgente creare un modello alla web app, che poi sia una web app nel senso che la web app non è un'applicazione che installi, ma che a cui ci arrivi tramite il browser e poi diventa un'app perché è ottimizzata per il display del touchscreen, piuttosto che un'app che potremmo comunque chiamare web app, che installi ma memorizzi i dati nel cloud, in un server remoto, qualunque esso possa essere. Diventa urgente perché il numero di dispositivi che utilizzano le app sta aumentando, smartphone, tablet e probabilmente anche PC. Il numero di dati che io affido alle app sta aumentando, il numero di app stesse che sono la porta poi per arrivare a internet sta aumentando, e quindi diventa urgente che i miei dati siano consistenti ovunque. Poi l'approccio alla web app, quindi un'app che io apro dal browser. Fammi un esempio di come potrebbe cambiare il mercato. Allora, oggi se io compro un tablet che funziona con il sistema operativo X, devo scaricare le applicazioni per quel sistema operativo. Se cambio marca, cambio sistema operativo, devo scaricare tutte le stesse applicazioni per quest'altro sistema operativo. Con le web app come cambia? La web app cambia perché l'app è ospitata sul server, per esempio Gmail. Gmail è una web app. È su internet, è non su ho bisogno internet. Di niente. Io ho un indirizzo che digito nel browser o che digito magari all'interno di una piattaforma app, eccetera. Sì. Io ho un indirizzo internet, apro l'applicazione, che è una sorta di sito web, semplificando, è un sito web ottimizzato per il tablet, però i dati io non li ho memorizzati come nelle app, nella memoria locale, quindi quando io perdo il dispositivo perdo anche la memoria locale. Certo. Le app sono come le mail di Gmail, per esempio, sono memorizzate tutte in sono cloud, tutte su internet. Ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strada e autostrada, riprendiamo tra poco. 2024. Un nostro ascoltatore, Antonio, ci scrive: su Android leggi le chiavette USB, su iPad no, solo questo basta per preferire il robottino. Beh, evidentemente il mercato non la pensa come Antonio, perché due terzi del mercato li fa iPad, e quindi probabilmente molti, sempre poi pensando alla logica del cloud, che si va sempre più verso il cloud, pochi evidentemente hanno bisogno di leggere la chiavetta USB. Concordo che in alcuni momenti effettivamente non avere l'accesso USB può essere un problema, però probabilmente non per tutti. Sentiamo Luigi da Pavia. Pronto, buonasera. Buongiorno. Allora, buonasera. Io utilizzo normalmente tutti e due i sistemi operativi, quindi sia iOS con iPad che Android sul mio telefonino. La mancanza che, diciamo così, trovo più grande sull'iPad è l'assenza del flash player, perché spesso i siti utilizzano contenuti realizzati con flash. Però guardi, quindi... Luigi, la sua testimonianza è preziosa e la rispettiamo, però per il mercato non lo è, e secondo me aveva ragione Steve Jobs, è un appesantimento ulteriore. Sono d'accordo, quindi è meglio che non ci sia. Chiedevo era se vedevate che per esempio in un futuro era possibile, non so, che flash arrivasse anche su iPad. No, anzi, flash è morto. Adesso lo facciamo dire a Luca Figini. Luigi, grazie per aver chiamato, perché questo è un tema molto interessante. Luca. Flash magari non è morto, ma sta morendo in maniera abbastanza rapida. Nel senso che anche su Windows 8, Windows RT, eccetera, non è, in questa fase non è previsto il flash. Sono previsti dei supporti esterni, ma nella metro, che è l'interfaccia di Windows 8 e Windows di Surface, quella fatta a blocchettini, nell'interno della metro flash non è ancora previsto, per dirne una. Sì, ma questo è chiaro anche ad Adobe, che è produttore di flash. E infatti sta facendo delle piattaforme alternative. Esatto. Senti, ci sono dei cambiamenti interessanti sul mercato, cioè adesso io ho ripetuto più volte queste due terzi del mercato su iOS, quindi iPad, e un terzo su Android, ma gli ultimi dati ci dicono che qualche cosa sta cambiando o mica tanto? No, ribadisco, più di due terzi del mercato sono d'appannaggio di Apple con l'iPad, anche perché, devo dirti la verità, mi sembra che ci sia stato un rallentamento dei produttori di tablet Android nella presentazione dei prodotti. L'ultima grande buffata è stata tra il Consumer Electronics Show di Las Vegas, che è stato inizio dell'anno, e il Mobile World Congress di Barcellona, con alcuni annunci. Dopodiché da lì in poi, almeno in Italia, è uscito pochissimo. Quindi tu non stai provando quasi nulla, non lavori più. Figini, no, provo altre cose. Sì, un po' provo altre cose, però non è uscito niente di sostanzialmente nuovo. E l'attesa è proprio tutta su Windows 8. Oltretutto, adesso che è stato presentato Surface, magari ci sarà un ulteriore rallentamento. Ti faccio un esempio: a Barcellona a febbraio Samsung ha presentato due tablet che non sono ancora arrivati sul mercato. Sul mercato in generale o in Italia? In Italia. In Italia. Senti, novità su iPad ce ne saranno? Novità su iPad ci sarà iOS 6 in settembre-ottobre. Sì. Vincenzo da Bari, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo solo porvi questo quesito: come mai secondo voi c'è stato un così grosso successo da parte di Android sui tablet e non lo stesso da parte di Windows Phone 7 o di altre piattaforme tipo Bada. No, sta parlando di, scusi Vincenzo, sta parlando di smartphone o di tablet? Allora, io so che l'Android è possibile installarlo anche su PC convenzionali, solo senza l'ausilio della tastiera ovviamente. Mi chiedevo il come mai questa piattaforma ha avuto questo successo sui telefonini e non su, sui PC, a prescindere computer, dalla, capito. Questione del touch. Sì, sì, chiarissimo. Beh, probabilmente perché nessuno lo sa, Luca. Ma Android, qualcuno ha anche provato a installarlo sui netbook, Acer, sì. Aveva fatto dei netbook con un doppio boot, con doppio avvio, Windows e Android. Android su PC è un'esperienza francamente disarmante, cioè non si usa. Invece sugli smartphone è perfetto, è talmente perfetto sugli smartphone che sui tablet non riesce a dare quello che dà sugli smartphone. Sì. Nicola, che non riusciamo a sentire perché ormai dobbiamo concludere questa trasmissione, voleva intervenire al telefono con una osservazione sicuramente interessante, cioè le applicazioni su web intaseranno la rete, ma del resto se voi siete ascoltatori fedeli di 2024 abbiamo parlato più di una volta della necessità di fare aggiornamenti, upgrade delle reti, perché effettivamente le applicazioni su smartphone e su tablet stanno già oggi creando dei seri problemi sul traffico della rete, tant'è che alcuni pensano che gli operatori possano rimodulare le tariffe nei prossimi mesi. Non so, Luca, cosa dici? Per adesso ci manteniamo su prezzi che non mi sembra scendano, però il mercato è piuttosto stabile. Il mercato è stabile, l'app crea, l'app o la web app comunque creano un altro problema, gli operatori che non ci guadagnano, nel senso che il prezzo dell'app alla fine loro non lo ricevono e lo subiscono, certo, perché crea traffico. L'LTE potrebbe essere, quindi 2013. C'è anche chi dice tutto questo ecosistema che si è creato tra smartphone, tablet e applicazioni ha anche favorito la vendita di un sacco di contratti a consumo o in abbonamento per collegarsi ad internet che gli operatori si sarebbero sognati un po' di tempo fa. Però è anche vero che recentemente, avete sentito, 2024, questo rapporto, cioè dalla voce fino a poco tempo fa, ma non tanto tempo fa, si raccoglieva l'80% dei ricavi a fronte di un 20% di traffico, la cosa è l'opposto per il traffico internet, quindi io non so cosa succederà sul mercato. Il traffico dati è sempre più preponderante e lo è oggi e lo sarà sempre di più. Sempre di più anche domani. Dunque, terminiamo questa puntata di 2024. Grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno chiamato in questo sabato pomeriggio. Grazie a Miriam Lucchetti che ci ha aiutato in regia. Grazie anche a Carmelo Lauricella e grazie soprattutto a Luca Figini che ci ha raggiunto nel nostro studio. Luca Figini, ricordo, è responsabile di portatili e tablet. Trovate naturalmente un sacco di informazioni in edicola. Luca, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a te, buona giornata a tutti. È tutto per questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini. Tra poco la troverete sul nostro sito internet www.radio24.it in versione podcast. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.